a Caltagirone come a Genova, stranieri in allarme per l'arrivo della nuova ondata che mette in crisi equilibri faticosamente costruiti nel tempo. Allora sentiamo Francesco Pignataro, sindaco di Caltagirone, comune siciliano in provincia di Catania. Noi abbiamo protestato, non come dice il ministro Maroni che ci tiriamo indietro, si è tirato indietro il ministro Maroni che si era impegnato a non far arrivare in questo villaggio cosiddetto dalla solidarietà direttamente i migranti da Lampedusa e quindi accogliere solo i rifugiati provenienti da altri centri e in realtà è successo il caos. Queste persone sono arrivate, vi sono stati dei contrasti all'interno dello stesso villaggio perché gli ultimi arrivati erano un po' più aggressivi e il risultato è stato nel giro di 48 ore che centinaia e centinaia di persone si sono perse per le campagne, per le strade, chi cioè ha sono andati via, un po' come a Manduria in provincia d'Italia, sì, dove sono arrivati e già alcuni, un 200 sono fuggiti. Esatto, tenga conto che noi non abbiamo detto nel nostro territorio non ci devono stare, anzi noi non li volevamo segregati in un villaggio, li volevamo dentro le nostre città. Questo dunque dalla Sicilia, ma ancora da Lampedusa verso l'Europa. Questo per attenuare la pressione, le valvole non sono poi così strette. E allora di fronte all'indifferenza della Francia, l'Italia mette in campo delle reti basse basse da dove l'esercito straccione dei tunisini in cerca di fortuna si muove alla spicciolata verso il confine di Ventimiglia. Il nome è Stradouane, partito da Gerba, arrivato in Lampedusa, ma è famiglia, papà in Francia. Gradouane, un passato negli alberghi di Gerba e un futuro immaginato in Francia, ma infranto al momento davanti alle sbarre abbassate dei valichi. Siamo in seria emergenza, i francesi hanno intensificato i controlli e quindi 20.000 è diventato un tappo. Guarda la stazione trasformata in un rifugio a cielo aperto e parla di un'emergenza serissima il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. Accampati, poco distanti dai binari, ci sono quelli che arrivano con i treni da Genova e ci sono quelli che già tornano dopo averci provato ad andare dall'altra parte. Nell'ultimo giorno e mezzo si sono verificati tra almeno quasi 300 persone, sono tutti ferma la stazione è impraticabile, vera emergenza, bisogna bloccarli prima. Ecco, questo per quanto riguarda la settimana di questo tema, ovviamente importantissimo. Vi segnalo, prima di invitarvi a sentire con me gli aggiornamenti per chi è in viaggio, che solamente ieri la Svezia si è offerta di accogliere un paio di centinaia di profughi in fuga dalla Libia, prevalentemente hanno detto sudanesi ed eritrei. Ma insomma, la notizia non è tanto la Svezia, ma è il primo segnale che arriva dall'Europa di volere quantomeno pensare a condividere una faccenda che evidentemente non può essere trattata come una questione solo italiana. Punto e a capo. Ancora un saluto a tutti voi cari ascoltatori, bentornati all'appuntamento con Punto e a capo. Ripartiamo da mercoledì 30 marzo. In Parlamento, dunque alla Camera dei Deputati e di fronte alla Camera in piazza di Montecitorio, mentre Berlusconi è a Lampedusa, in Parlamento si scatena letteralmente la bagarre. Monetine, insulti e caos fuori e dentro la Camera. La maggioranza accelera sul processo breve, inverte l'ordine dei lavori per esaminare prima il testo. Liberate i criminali, accusa il PD che nel pomeriggio organizza un sit-in davanti a Montecitorio. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, esce dalla Camera e viene preso d'assalto dai manifestanti. La Russa rientra e prende la parola in aula. È il frutto di una organizzazione voluta, di contestazione premeditata. Voi siete complici, voi siete violenti, assai più di loro. Gli risponde il capogruppo PD Dario Franceschini. E vorrei capire come, altrettanto casualmente, il ministro della difesa non abbia mancato di uscire dal portone principale per essere vittima di una enorme aggressione. La Russa applaude sarcasticamente. Il presidente della Camera Gianfranco Fini lo richiama all'ordine. A quel punto il ministro della difesa fa il gesto di mandarla a quel paese. Fini sospende la seduta. Onorevole ministro, non le consento di insultare la presidenza. E chiosa, curatelo. Questi fatti,

Non siamo dentro la Camera, non siamo noi che abbiamo causato quel casino dentro la Camera. È stata la Russa che è il ministro della difesa, che è il ministro della difesa e che dovrebbe avere. Ne abbiamo parlato fino a questo momento. Però, Masciale, le chiedo, ci sareste quasi entrati. Io le dico, secondo me, il rischio è questo. No, mi scusi, ma noi non ci siamo in Parlamento, non siamo noi che abbiamo causato quella bagarre in Parlamento, sono i nostri parlamentari. E poi naturalmente ci siete voi, gli ascoltatori, chi chiama e partecipa alle nostre trasmissioni. Hanno chiamato in molti, non vi sorprenderà, intorno al tema che stiamo trattando. Vi facciamo sentire un intervento, quello di Fulvio. Fulvio, dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto grazie di questi bei dibattiti. Volevo solamente collegarmi a quello che avete appena detto e fare un appello a voi che siete opinion leader. Perché dobbiamo smetterla di chiamarla la vecchia prima repubblica e la nuova seconda repubblica. Siamo ancora nella prima, cioè non c'è stato nessun cambiamento istituzionale, la Costituzione è rimasta la stessa. Però, okay? Però il maggioritario ha cambiato la forma. E anche le persone, persone, perché è un po' una leggenda che ci siano gli stessi parlamentari. C'è stato un grande ricambio, molto più di quanto si pensi. Scusi, siamo nella seconda repubblica solo perché governano, e governano non solo il governo, ma anche i partiti tutti, le seconde file della prima. Ricordiamoci questo. Ah, dice i portaborse della prima. Cioè. Ma questo è successo, ragazzi. Cioè, voglio qui dire... stiamo scadendo proprio un po' nell'antipolitica. Però questa è una tesi, secondo me, molto fondata. Molto fondata. Cioè, quelli che si sono formati, ma... Ma formati per, tra virgolette. Stavo dicendo tra ma male. No, tra virgolette. Ultimo contributo, una sorta di lapide letteralmente su questa vicenda portata da Lina Sotis. Per quello che riguarda me, per quello che riguarda la cittadina Lina Sotis, che vergogna, li manderei tutti a casa. Senta, ma qui dobbiamo semplicemente chiederci dove li hanno trovati, come sono usciti fuori dal cappello. Una è l'amante di uno, l'altro è l'amico dell'amico dell'amico dell'amico dell'amico di altro, l'altro ancora non si capisce bene come è potuto arrivare, ma anche a Roma. Ma insomma, non abbiamo mai visto niente di simile, mai. Io penso che non si possa che unirsi a un applauso queste parole del Nasotis, davvero, perché, ripeto, questa è un'altra considerazione che prescinde da, potete essere più favorevoli o più distanti a questa o quella parte politica, ma questo è un altro fatto oggettivo della politica di questi anni, di questa legge elettorale, di questi meccanismi di selezione che producono il risultato descritto in poche parole, secondo me, col giusto tono da Nasotis. Punto e a capo. Ecco dunque quello che è accaduto, una parte di ciò che è stato detto e di quanto abbiamo raccontato. Ma ora ritorniamo indietro. Infatti, se non fosse stata la settimana che è stata, forse l'avremmo raccontata come quella del ritorno, 8 anni dopo, in aula giudiziaria del Presidente del Consiglio, lunedì a Milano. Marciapiede gli slogan dei suoi fan, sull'altro chi gli urla dimissioni al centro della strada davanti al Palazzo di Giustizia, lui, il Premier, che sale sul predellino dell'auto e a Radio 24 dice ci sarò anche le prossime volte. Spero di sì. Dopo 8 anni Silvio Berlusconi torna in tribunale nell'aula dell'udienza preliminare Media Trade. In un palazzo blindato il Premier compare davanti al giudice che deve pronunciarsi sul suo rinvio a giudizio per appropriazione indebita e frode fiscale nella compravendita dei diritti TV. Accuse ridicole, sono perseguitato dalla procura, si difende di primo mattino dalle telecamere di Canale 5, ripetendo poi le stesse dichiarazioni nella pausa dell'udienza a porte chiuse. Assicura il Premier che stavolta farà la riforma della giustizia, perché non deve fare più i conti con Fini e Casini, dice, e tra i cioccolatini di Ghedini e le battute su Ronaldinho snocciola i dati delle sue cause. Tutto bene, tornerò anche il 4, ci dice all'uscita, mentre un cuscinetto gli protegge la schiena sul predellino. Alla nostra domanda sul Ruby Gate, però, Berlusconi non risponde. Quel processo, tra i più delicati per lui, comincerà il 6 aprile. Punto e a capo. A 3 settimane dal catastrofico terremoto dell'11 marzo scorso nel nord-est del Giappone, gli eserciti del Giappone e quello americano hanno mobilitato migliaia di uomini per cercare i corpi delle vittime dello tsunami al largo delle coste. Ad oggi 16.451 persone sono considerate disperse, oltre agli 11.578 decessi confermati, secondo l'ultimo bilancio ufficiale. I due eserciti hanno messo in campo 120 tra aerei ed elicotteri e 65 imbarcazioni. Le speranze di trovare sopravvissute sono ormai nulle. Hanno detto che sono decisi a concentrare tutte le ricerche sulla costa, sui delta dei fiumi, sui territori ancora ricoperti dalle acque del mare, così ha spiegato un responsabile appunto delle forze di difesa giapponesi. Le operazioni sono davvero di ampiezza impressionante. Vi partecipano 17.000 soldati giapponesi, 7.000 soldati americani. Tutta la zona, compresa nel raggio di 30 km dalla centrale di Fukushima, non verrà invece perlustrata a causa delle alte radiazioni e si stima che in quell'area, solo in quell'area, vi siano circa un migliaio di corpi a cui non è stata data sepoltura. Cambiamo scenario, molto lontano, molto più vicino a noi. Le ultime notizie parlano per l'ennesima volta di un ritorno delle forze fedeli al colonnello Gheddafi, che proprio nelle ultime 24 ore hanno sferrato un attacco contro la città di Misurata con i carri armati, mortai, lanciarazzi. Questo lo afferma il portavoce degli insorti, precisando che gli uomini di Gheddafi sono nel centro di Misurata ed attaccano le case ed i negozi. Usano carri armati, lanciarazzi, mortai, vari tipi di proiettili per colpire la città, prendono per bersaglio chiunque, anche le case dei civili. Così racconta a poche ore appunto dalla fine della settimana, nel giorno del venerdì della preghiera, il portavoce della ribellione nella zona di Misurata. Questo dunque per la settimana, per cercare di raccogliere anche quelli che sono gli ultimi eventi. Ma noi torniamo a mercoledì, giornata importante anche sul fronte libico, oltre a quello interno italiano. Infatti un uomo di grande potere all'interno del regime defeziona. Alberto Negri ci spiega di chi si tratta. Mentre le truppe di Gheddafi stanno stringendo di nuovo d'assedio a Gheddafia, il nodo strategico a 160 chilometri da Bengasi, è arrivata stanotte la sorpresa. Il ministro degli esteri libico, Moussa Koussa, ha defezionato e dal Tunisia, dove si era recato nei giorni scorsi, è arrivato a Londra. Il secondo Tripoli è in missione, ma il Foreign Office, il ministero degli esteri inglese, afferma che Moussa Koussa ha abbandonato il suo capo, il colonnello. E lui è un personaggio, Koussa, molto importante nelle gerarchie libiche, è stato per molti anni il capo dell'intelligence, è stato colui che ha trattato in questi anni anche il famoso caso Lockerbie, l'aereo che citò nei cieli della Scozia, un attentato organizzato dai libici. Fu lui che negoziò con gli inglesi e poi anche con i francesi il ritorno di relazioni diplomatiche con il mondo occidentale. Insomma, un brutto colpo per il colonnello che vede allontanarsi da Tripoli uno dei fedelissimi. Forse questa è la defezione più importante delle ultime settimane. Martedì intanto c'era stato il vertice a Londra senza la partecipazione italiana. In just one month. Gli Stati Uniti hanno fatto il loro dovere in Libia, ha detto, evitando con l'intervento una strage da parte del regime di Gheddafi. Ora il comando dell'operazione può passare alla NATO. Obama ha anche confermato che l'obiettivo è quello di rovesciare il regime del colonnello Gheddafi. Intanto oggi vertice a Londra, ma preceduto da un confronto a quattro da cui l'Italia è rimasta esclusa. Facendo seguito all'annuncio di venerdì, il premier David Cameron e il presidente Nicolas Sarkozy hanno presentato fronte comune in vista del summit odierno, ponendosi idealmente alla guida della coalizione. In una nota congiunta hanno affermato che Gheddafi se ne deve andare immediatamente e che la transizione in Libia deve essere affidata al Comitato Nazionale dei Ribelli. I due hanno lanciato un appello esplicito ai lealisti affinché abbandonino Gheddafi. La seconda mossa a sorpresa è stata invece la videoconferenza a quattro tra i leader francese e inglese insieme al presidente americano Barack Obama e alla cancelliera tedesca Angela Merkel, finora la più riluttante 70 a seguire gli alleati nel conflitto, una conferenza dalla quale l'Italia è stata esclusa al punto che il ministro degli esteri Franco Frattini è dovuto intervenire affermando in quella sede non si è deciso niente. In mattinata proprio Frattini aveva fatto retromarcia anche sul cosiddetto piano italo-tedesco da lui auspicato domenica, di cui non resta traccia visibile. Io in realtà non lo chiamerei un asse italo-tedesco, sono delle idee che oggi ho anche condiviso con altri colleghi. Occorre una soluzione condivisa, è evidente che la soluzione politica ci deve unire. Franco Frattini, ministro degli esteri, poche ore dopo minimizza la portata dell'incontro londinese. Ieri c'è stato un tentativo da parte di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti di riagganciare una Germania problematica che nel Consiglio di sicurezza aveva votato in difformità dall'intervento internazionale, non lo aveva condiviso, ha confermato che non si vuole impegnare nella missione internazionale. L'ho fatto anch'io a livello bilaterale, contattando i tedeschi e evidentemente ottenendo sempre una risposta molto chiara: noi non parteciperemo a questa missione internazionale. Ma un tentativo evidentemente era necessario, quindi non era certo un incontro, una videoconferenza per prendere decisioni o per fare alcunché. E oggi a Londra, tra poche ore, invece si prenderanno le decisioni, ci sarà un gruppo di contatto permanente in cui ovviamente l'Italia ci sarà e quello sarà il gruppo decisionale. Noi vediamo tre azioni necessarie. La prima, una garanzia del cessate il fuoco sul terreno, perché evidentemente senza questo è difficile sedersi a un tavolo e purtroppo le truppe di Gheddafi continuano a sparare. La seconda tappa indispensabile è che il consiglio temporaneo di Bengasi, io proprio ieri pomeriggio avevo parlato ancora una volta al telefono con il signor Jalil, che è il presidente di questo consiglio temporaneo, prenda un'iniziativa di riconciliazione nazionale. Quel consiglio temporaneo viene ritenuto un interlocutore affidabile per la comunità internazionale e quindi sono i libici, cioè loro, a dover prendere un'iniziativa politica dall'interno. Terzo, dall'esterno, l'Unione Africana. Io sono convinto che l'Unione Africana abbia delle chance, perché evidentemente se una missione politica spiegherà un'ennesima volta al colonnello Gheddafi che lui deve lasciare perché nessuno lo considera più un interlocutore affidabile, si combineranno tre fattori. Punto e a capo. E ora ritorniamo in Italia, anche se in realtà appunto stavamo parlando della politica estera italiana, per raccontare di un paese che risparmiava 22 euro su 100 nel 90, meno di 10 su 100 nel 2010. Il paese naturalmente è il nostro, sarà stato il passaggio all'euro, il blocco dei rinnovi dei contratti, un'inflazione reale spesso superiore a quella stimata e sulla quale sono state effettuate le rivalutazioni, le riforme sulle pensioni che hanno aumentato il tasso di scopertura rispetto agli stipendi, al quale si aggiunge un reddito che è rimasto sostanzialmente fermo dal 1990 al 2010. Tutti questi fattori hanno determinato un'erosione del risparmio annuo pro capite degli italiani, il quale si è ridotto in termini reali di quasi il 60%. In soldoni, il risparmio medio, che era pari a circa 4.000 euro nel 1990, ovviamente l'equivalente in lire, è sceso a 1.700 euro nel 2010. Il risparmio complessivo dal 1990 a oggi delle famiglie italiane si è dunque ridotto di circa 20 miliardi di euro. Sebastiano Barisoni, intervista a Focus Economia, Mariano Bella di Confcommercio, che ha curato appunto questa ricerca. Nel 1990 tutte le famiglie consumatrici in Italia, tutte le famiglie, risparmiavano 120 miliardi tutte insieme. Nel 2009 ne risparmiavano 110. Nel 2010, secondo nostre stime, ma abbastanza vicine diciamo a quello che può essere la realtà, ne risparmiano 100 miliardi. Quindi, considerando anche l'inflazione che c'è stata, il risparmio si è ridotto. Se poi giustamente andiamo a dire quanto è il potere d'acquisto di questo risparmio per italiano, per ciascun italiano, vediamo che ciascun italiano ai prezzi del 2010 nel 90 risparmiava 4.000 euro, nel 2010 risparmia 1.700 euro, quindi effettivamente c'è una riduzione del tasso di risparmio molto molto elevata e in qualche misura anche preoccupante, perché se non si risparmia non si copre il futuro.

a insidiare, scusate, il primato di Nessuno mi può giudicare, la versione cinematografica del successo televisivo Boris. Tre i registi, Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Li ha intervistati Marta Cagnola. Siamo tornati al cuore del problema, cioè ci siamo domandati che cosa ci ha spinto a fare la prima serie, diciamo, quindi parlare di cose vere usando la chiave della satira e dell'ironia, non prediligere, cioè non fare mai la scelta facile, cioè dire una cosa fa ridere ma non è vera. Tutto quello che raccontiamo è emblematico, cioè racconta secondo noi un pezzo del paese, un pezzo del nostro cinema e dei problemi, ma soprattutto del paese, del lavoro, di quanto è difficile lavorare bene in gruppo, cioè di quanto è difficile vivere in questo paese. Ma in realtà poi il film Boris racconta anche le difficoltà di un'impresa qualsiasi in Italia. Poi quello che è successo quest'anno effettivamente è abbastanza straordinario, nel senso che appunto è stato l'anno delle grandi commedie e noi vorremmo inserirci in questo filone, diciamo, in questa serie di successi. Ora vediamo un po' se non è troppo tardi. Chi non avesse visto la serie, che cosa deve sapere e come si deve preparare a questo film? Deve mettersi una giacca, prendere la macchina e andare al cinema, nel senso che noi abbiamo scritto questo film per tutti e anzi pensiamo che possa essere una bellissima porta d'ingresso per la serie, cioè non è assolutamente necessario aver visto la serie, anzi è un invito a farlo poi dopo. La radiofonica, dove avete trovato l'ispirazione per scrivere dopo il cinema, la radio e poi la morte, e volevo sapere, preoccupandomi, se è vero. Se fai caso è la classifica rovesciata del ruolo della razionalità, cioè io credo che la radio sia al massimo il genere dove il cervello è più grosso in un certo senso, perché è tutto basato sulle parole, sulla logica, l'argomentazione. Poi c'è il cinema, che è una via di mezzo, basato anche molto sull'emozione, e la TV, che è basato su... La merda. Non mi veniva la parola, ma è quella, diciamo. Altro film molto diverso che è stato presentato si chiama La fine è il mio inizio. È la pellicola, avremmo detto un tempo, sugli ultimi giorni di Tiziano Terzani, tratto dall'omonimo libro del figlio Folco, che ha collaborato alla sceneggiatura e che ne ha parlato appunto con Marta Cagnola. Secondo me, quando uno c'ha una cosa da dire, non importa quali mezzi usa, no? Il libro era il mezzo che usava mio babbo, a cui lui era abituato, lui scriveva, per cui veniva naturale fare un libro. Se fosse stato un poeta, forse lo faceva in una poesia o in pittura in un quadro. Il modo moderno di raccontare le storie, almeno per quanto so io, sono i film, forse ancora meglio sarebbero i videogiochi, ma io non arrivo a questi livelli, non li conosco abbastanza bene. E poi alla fine non importa quale forma, il messaggio deve rimanere lo stesso. A proposito del messaggio, allora quanto è necessario questo film in questo momento storico? Ho l'impressione che i messaggi giusti arrivano al momento che sono necessari, no? Per cui forse appunto emerge una cosa del genere proprio perché ce n'è bisogno. C'è bisogno forse di un ripensamento e uno sa dove incomincia. E allora mi sembra a me, poi potrebbero esserci molte altre cose, ma mi sembra che il modo più profondo di approcciare un ripensamento è attraverso la morte, perché la morte è l'inizio della vita, cioè si inizia dal buio e si ritorna al buio. E parlando di questa cosa si può fare una tabula rasa, rincominciare da capo e cercare di capire cosa sono i veri valori. Se uno ha voglia di affrontare qualsiasi cosa di profondamente filosofico, secondo me deve iniziare lì. Punto e a capo. E ora parliamo di calcio in questi ultimi minuti, cominciando da quel principessa Roma, farò di te una regina, che ha esclamato in settimana Thomas Di Benedetto, l'imprenditore americano vicino all'acquisizione della Roma. L'ufficialità ancora non c'è e per il lieto fine bisognerà dunque aspettare almeno un paio di settimane, quando attorno al 15 aprile a Boston si potrebbe celebrare il matrimonio. Lo slittamento della data tiene in ansia l'ambiente giallo-rosso e in questi giorni il Sole 24 Ore ha messo in dubbio anche la solidità dell'accordata di Benedetto. Allora sentiamo il giornalista del Sole Marco Bellinazzo al microfono di Gigi Garanzini. L'appuntamento era quello di A Tempo di Sport del 31 marzo. I due colleghi